Yay! What a joy to be alive! Are you taking your things down? State lasciando tutto? No, you know, non lasciate nulla. Oh, what a joy to be in the house, oh God. Mamma mia, che grande gioia essere qui questa sera. You know, in America, the band they stays when the preacher is on, right? Sapete, in America la band continua senza fermarsi. And I'm so tempted to have you here for some time. E io sono tentato nel tenervi qui per un tempo, insomma, abbastanza lungo. Now you played something so nice. Why did you stop? Ma perché avete smesso di suonare? Can I have some monitor here? Posso sentirmi un po' di più col monitor? Yeah, there we are. Okay. And some here. Yeah. Ci siamo? Yes, there we are. Okay, ci siamo. Okay, anyone knows Jesus in this place? Okay, c'è qualcuno che è innamorato di Gesù questa sera? Oh, this is the right place to be. Okay, questo è il giusto posto. You know, God is raising up His people all over Europe. Sapete, Gesù sta facendo crescere il suo popolo in tutta l'Europa. It's a generation who loves Jesus. Ed è una generazione che ama Gesù. Who are passionately in love with Him. Che è appassionatamente innamorata di Gesù. Is it the same in Italia? È lo stesso qui in Italia? Is this also happening in Italia? È lo stesso qui? Wow! I'm so excited to be here today. Sono così felice di essere qui oggi. And I'm so much looking forward to what's going to happen here next year. E non vedo l'ora di vedere quello che sta per succedere l'anno prossimo. Because we believe in a mighty move of God. Perché noi crediamo che Dio si muoverà grandemente. Yes, we believe in a mighty move of God. Noi crediamo che Dio si muoverà in maniera assurda. Yes, we believe in a mighty move of God. Perché crediamo nella sua opera. In the power of the Holy Spirit. Nella potenza dello Spirito Santo. Yeah. There is nothing like knowing Jesus. Perché c'è un qualcosa di speciale nel conoscere Gesù. Amen. Thank you. Amen. You can stay there. State qui. But we have another song for you. Ma abbiamo un altro ritmo, un'altra canzone per voi. Because the message tonight. Perché il messaggio questa sera. Is to go into all the world. È di andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Andare. In tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Amen. Amen. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. We're just getting friends, you know. Okay, stiamo facendo amicizia, yeah. Ci stiamo abituando a lavorare insieme. Andare in tutto il mondo. Andiamo in tutto il mondo. I love Italian. Mi piace l'italiano. There is so much music in Italian. È un linguaggio così musicale. And by the way, did Jesus tell us to do this? By the way, did Jesus tell us to do this? Gesù ci ha detto di dire questo, di fare questo. Yes, in Matthew 28. Certo, è in Matteo 28. In verse 18, 19, 20. Dal versetto 18 al 20. Jesus says. Gesù dice. All authority has been given to me in heaven and on earth. Tutta l'autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Go therefore out. Andate dunque. Into all the world. E fate discepoli in tutto il mondo. Tutto il mondo. And make disciples of all nations. E di tutte le nazioni fate discepoli. Andare. Andiamo. Andare. Andare. Let's go. Bellissima. Let's go into all the world. Andiamo in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Yes. Andare. Can we do something with this? Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Oh. So if you would just like, yeah, there you are. Okay. Okay. Okay. Okay. I do the orchestra a little bit different. Okay. We start with you. Okay. Facciamo il. Lavoriamo in maniera diversa. Incomincia solo il batterista. I know preachers don't normally do this stuff. Lo so che di solito i predicatori non fanno tutto questo. But I'm kind of a musician who became a preacher, so I allow myself. Ma io sono un musicista che è diventato un predicatore. So you play what I tell you, okay? Quindi Marco, yeah, suona quello che lui ti dice. We should have a bit more. Okay. And we need some volume on that guy. Magari se possiamo sentirlo più forte, la batteria. Okay. And you can do something. Ah! And if you could do like. Ah, there we are. Oh, yeah, yeah. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Oh, andare in tutto il mondo. Andare. I think you have to stand on your feet, okay? Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Can I hear your voice? Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Now this is very good. But I think we have to have some masculine power. Ok, va bene, ma yeah, abbiamo bisogno un po' di della voce mascolina. Yeah, you know, like some extra background vocals. Ok, magari dobbiamo sentire più da parte vostra, tipo un coro. Do we have some guys with some really deep voice here? Abbiamo qualcuno dei maschietti che ha veramente una voce profonda? Like Mario! Mario! Perfetto, Mario! This is the night of the fulfillment of your dreams, Mario. Questa è la realizzazione del tuo sogno, Mario. Okay. So this is what I want you to do. So when the guys are playing this, quando i ragazzi suonano, you do like this. Tu fai così. Andare, andare, andare, andare. Okay, can you do that? Let me hear you now. Andare, andare, andare, perfetto. Andare. Okay, you all guys ready? Siete one, pronti? One, two, three. Andare, andare, andare, andare, andare, andare, andare. And here we go. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Oh, andare in tutto il mondo. Andare, andare. Stop. We need some Italian passion. Allora abbiamo bisogno della passione italiana. You know, imagine Modugno football. Allora immaginiamoci la squadra del Modugno. Is playing against Juventus. Immagina che sta giocando contro la Juventus. Modugno 3, Juventus 1. Modugno sta a 3 e la Juventus sta a 1. What would you do? Allora che cosa fareste, insomma? No, you would like, wow, right? Yeah, yeah. So we need some Italian passion. Quindi abbiamo bisogno di una chiesa appassionata all'italiana maniera. Can I hear you? Posso andare sentirvi? In tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Wow! Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Two, three. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Andare, andare, andare, andare, andare, andare, andare, andare, andare, andare, andare, andare. andare in tutto il mondo. Oh, oh. Yeah. Thank you very much, gentlemen. Grazie mille. Perfetto, sì, però, bravo, bellissima. Totalmente. You may be seated, please. Possiamo accomodarci? So at least now you know the topic of tonight. Quindi almeno il soggetto di questa sera l'abbiamo capito. And then let's read from Matthew chapter 9. E quindi leggiamo da Matteo al capitolo 28. Matthew 9. Scusate, Matteo 9. Verse 35. Dal verso 35. I changed my mind. I stay over here. Okay. Sorry. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were very unscattered like sheep having no shepherd. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. You can take a break and I'll call you up later. Voi potete adesso andare e vi chiamo non appena ne ho bisogno. But don't go far away. Non vi allontanate troppo. Okay. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Quindi quando ha visto le folle, fu mosso da compassione. He went from city to city, from town to town. Lui andava da città in città, da paese a paese. And he saw everyone who didn't know Jesus. E ha visto tante persone, Gesù. And he was moved with compassion. Ed era mosso da compassione. And what did he say? E che cosa ha detto? I hope someone does something with this. Spero che qualcuno si prenda cura di questa situazione. No, the Bible says, and he said to his disciples. No, la Bibbia ci dice che lui ha detto ai suoi discepoli. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Now it's a very nice word. Ora si tratta di una parola molto molto particolare, bella. Pray the Lord of the harvest to send out laborers. Pregate il Signore della messe che mandi gli operai nella sua messe. But the word being used in Greek. Ma dal greco la parola che è utilizzata qui is ekballo. È ekballo. Can you all say this? Lo potete ripetere? Ekballo. Ekballo. And it's used all over the New Testament. E in tutto il Nuovo Testamento vediamo questa parola che si ripete molte volte. Every time Jesus is casting out demons. Ogni volta che Gesù lo vediamo che caccia fuori dei demoni. It's the same word. Usa la stessa parola. It actually means drive out workers. Qui nel versetto in realtà sta dicendo cacciate gli operai. And drive out the demons. E cacciate i demoni. I got surprised when I saw that. Quando ho scoperto questo, sono rimasto abbastanza sorpreso. I thought maybe the demons and the workers have something in common. Ho pensato forse i demoni e gli operai hanno qualcosa in comune. They both want to stay where they are. Perché entrambi vogliono rimanere proprio dove si trovano. Let me use an example. Ok, lasciate che vi illustri un esempio. Have you ever had guests who kind of never left? Avete mai avuto degli ospiti che non se ne volevano più andare da casa vostra? You know, that didn't kind of get the social codes. Che insomma no, si sono sentiti proprio comodi a casa vostra. You know that feeling there? Sapete, conoscete quella sensazione? And you kind of say, oh, well. E tu dici, beh, allora. It's been a good evening. Stata una bella serata. And they just. E loro che continuano a parlare, bla bla bla bla. Well. Beh. It's work tomorrow. Domani si lavora. and they don't get it. Ma non lo capiscono. Continuano. And you know, you've tried everything. Ne hai provate di tutti i colori. But have you ever been driving out the guests? Ma avete mai proprio cacciato via i vostri ospiti? Cacciato via, Have you ever done that? Cioè, li avete mai cacciati i vostri ospiti da casa vostra? Then, I mean, then you know the guests do not want to go. Thank you very much for tonight. Thank you. In questa maniera. It was a great joy to have you here. Okay, è stato molto bello questa sera averti. Adesso basta. You know, it was a special thing because he had to be forced out. Cioè, thank you very much for coming. Grazie mille per essere venuto. Basta. You know, fuori. Some. Okay. Jesus says. Gesù dice. Go into all the world. Andate in tutto il mondo. Make disciples of every nation. Fate discepoli di tutte le nazioni. Uh-huh. But the workers. Ma gli operai. They tend to want to stay where they are. Loro tendevano a rimanere dove erano. And we make it very complicated. E lo facciamo proprio complicata la questione. Oh, you know what? Sai che cosa? I wonder what my calling is. Io mi domando quale sia la mia chiamata. It's very complicated. È molto complicato comprendere. And I heard some people they have calling for missions and other nations. E ho sentito che molte persone fuori hanno questa chiamata per le missioni. Very special. È molto speciale. Have you heard sorella Maria? Hai sentito della sorella Maria? She's going on a mission trip. Lei sta partendo per un viaggio missionario. Wow. Wow. Molto speciale. Very special. No. No. Very normal. È molto tutto normale. Because if Jesus said go. Perché se Gesù dice andate. Andate. You need a stronger calling to stay. Dice andate e non rimanete. If Jesus called us to go. Se Gesù ci chiama ad andare. We need a stronger calling to stay. Noi sentiamo questa chiamata ancora più forte di rimanere. Uh-huh. Who invited this Norwegian preacher? Ma chi l'ha invitato sto predicatore norvegese? It's crazy. È un po' pazzo. Crazy. Pazzo. Pazzo. But you know what? Ma sapete cosa? The Lord has told us. Il Signore ci ha detto. To go into all the world. Di andare in tutto il mondo. And you are so blessed. E noi siamo così benedetti. In Bari. A Bari. In Modugno. A Modugno. In Puglia. In Puglia. Because you are so close. Perché siete così vicini. To one of the most unreached areas in the world. A quelle che sono le nazioni meno raggiunte di tutto il mondo. Amen. Amen. What do you mean? Ma che significa? Just across the ocean. Giusto dall'altra parte dell'oceano. Albania. C'è l'Albania. Montenegro. C'è il Montenegro. Serbia. C'è la Serbia. Croatia. La Croazia. Macedonia. La Macedonia. Kosovo. Il Kosovo. Nations who needs Jesus. Nazioni che hanno bisogno di Gesù. Amen. Amen. But there is a problem. Ma c'è un problema. What do they eat there? Che cosa mangiano lì? One time. Una volta. An Italian family decided to visit us in Norway. Una famiglia italiana decise di visitarci in Norvegia, dove abito io. I think they were worried. E io penso che loro fossero abbastanza preoccupati. 10 days in Norway. 10 giorni in Norvegia. What do they eat there? Ma che cosa mangiano lì? Salmone, salmone, salmone, salmone, salmone, salmone. Ah. You know what they did? Sapete cosa hanno fatto? They brought their own chef. Si sono portati da mangiare. Because their uncle owned the restaurant. Hanno portato in realtà uno chef personale, perché il loro zio. So they came to our house. E quindi con loro zio, che era chef, sono venuti a casa. The whole family. La famiglia intera. And the chef. E lo chef. And he brought 25 kilos of Italian food with him. E lo chef aveva 25 kg di cibo italiano con sé. Mozzarella, parmigiano. Totalmente. Tutto italiano. And then he came into our kitchen. Quindi lui è entrato nella nostra cucina. And he said to us. E ci ha detto. You can take a break. Prenditi una pausa. I take the kitchen. Prendo io, ho tutto sotto controllo. Well, he made good food. Era bravo a cucinare. For 10 days. Per 10 giorni. But I discovered. Ma ho scoperto. That for the Italians to be a part of the Great Commission. Che per gli italiani. To be a part of the Great Commission. Per essere parte di una buona cena. You need twice as many workers. Hai bisogno due volte del numero degli operai. Yeah, to be missionaries. Per essere missionari c'è bisogno per gli italiani di due volte il numero degli operai normalmente. One missionary. Un missionario. And one cook. E uno chef. Which is okay. Che è ok, va bene. Jesus sent them out two by two, you know. Gesù li mandava due a due. Ai ai ai. Well, the Bible told us to go. Ma la Bibbia ci ha detto di andare. Even though they don't eat Italian food there. Anche dove non c'è il cibo italiano. Amen. Amen. One time I was preaching in the Pacific in an island. Una volta stavo predicando su una in un'isola pacifica, nel Pacifico. And I was served something I didn't know what it was. E qualcuno mi ha dato una pietanza che non sapevo di cosa fosse. But the food looked at me. Ma il cibo mi ha guardato. It had eyes. Perché aveva gli occhi. I thought. E io ho pensato. It's easier to eat it. È più facile mangiarlo. And not know what it is. Non sapendo che cos'è. I kind of thought it's either me or him. Ho pensato o lui o io. I'm going to eat that guy. Allora io lo or mangerò. Eat, you know, o qualsiasi cosa sia. So I put on all the spice I had. E quindi le ho messo tutte le spezie che potevo. You have some more pepper? E un po' più di pepe? Sauce, everything. Salse, spezie, di tutto. I ate it. E l'ho mangiato. It tasted interessante. Il gusto era abbastanza interessante. I don't know what it was. E tuttora non so che cosa io abbia mangiato. I didn't want to know. Ma non lo volevo neanche sapere. But I preached the gospel there. Ma ho predicato il Vangelo lì. Hallelujah. We are called to be missionaries. Noi siamo chiamati ad essere dei missionari. And you know what? E sapete cosa? I've been traveling around the Balkans. Io ho viaggiato nei Balcani. I've been in every nation. Sono stato in tutte le nazioni. This summer we preached there with Jesus Revolution. Quest'estate abbiamo predicato con il Jesus Revolution. More than 1,000 young people received Jesus. E più di un migliaio di giovani hanno accettato Gesù. Many Muslims received Jesus. Molti musulmani hanno ricevuto Gesù nel cuore. And we went into a town. Siamo andati nelle città. With a big city, grandi città. With only 5 Christians. Con solo 5 credenti. And this is what they said. E questo è quello che i credenti hanno detto. No one has preached the gospel here publicly. Nessuno ha mai predicato il Vangelo qui pubblicamente. Since before the Ottoman Empire in 1389. Prima dell'impero ottomano. In 1389. Nel 1389. That's a long time. È molto tempo fa. And it's your neighborhood. E sono i nostri vicini. Love your neighbor as yourself. Ama il prossimo come te stesso. Love your neighbor as yourself. Ama il tuo prossimo come te stesso. Love your neighbor as yourself. Amalo come te stesso. Love your neighbor as yourself. Amalo come ami te stesso. So love the Balkans as Italy. Quindi ama i Balcani come ami l'Italia. Love the Balkans as Italy. Ama i Balcani come fossero l'Italia. Love the Balkans as Italy. Amali come la tua nazione. Love your neighbor as yourself. E ama il tuo prossimo come te stesso. Balcani. Ma i Balcani. Let me tell you something. Lasciate che vi dica una cosa. About 120 years ago, circa un centinaio di anni fa, my nation Norway, la mia nazione, la Norvegia, was the poorest nation in Europe. Era la nazione più povera in Europa. We had nothing. Non avevamo nulla. Every third Norwegian went to America. Ogni tre norvegesi, uno andava in America. 33%. Il 33%. No jobs, no hope, no future. Non c'era né lavori, non c'era nessuna speranza, non c'era futuro. But then God started to move the hearts of the Christians. Ma poi Dio ha incominciato a muovere i cuori dei credenti. There was a move of God. E c'è stato proprio un movimento da parte di Dio. And guess what happened? E indovinate cosa è successo? They started to pray. E hanno incominciato a pregare. Lord of the harvest. Il Signore della messe. Send out workers. Manda operai. They prayed. Loro hanno pregato. And they gave. E hanno dato. They were poor. Loro erano poveri. They made some extra cakes. Ma hanno fatto qualche torta in più. The women were knitting and making some e le donne clothes. Che facevano i lavori a maglia ne facevano di più per venderli. Selling it. Per appunto avere un commercio di questo. Thousands of prayer houses for missions were started. Migliaia di case di preghiera per le missioni ebbero inizio. And thousands of missionaries were sent out. E migliaia di missionari furono mandati. Norway became the number one mission sending nation in the world per capita. La Norvegia è diventata una delle la nazione numero uno quando si parla di mandare missionari. When we had nothing. Proprio quando non avevamo nulla. You see, when you sow, you reap. Vedete, quando semini, raccogli. When you give, you receive. Quando dai, ricevi. When you bless, you are blessed back. Quando benedici, ricevi benedizione in cambio. And the Bible tells us to send our best ones. E la Bibbia ci insegna di mandare i nostri operai migliori. In Acts chapter 13 we read that Paul was sent out. In Atti 13 leggiamo che Paolo fu mandato. From Antioch. Da Antiochia. Can you imagine Antioch? Cioè potete immaginare Antiochia? Wow. Wow. Thursday night Bible study with Paul. Wow. Il giovedì sera l'incontro lo studio biblico con Paolo. You know, a series about righteousness of faith. Sapete, sai, una serie sulla fede e l'essere giusti. Paul, this is great teaching. Paolo, sei un insegnante, grazie per i tuoi insegnamenti. You should write a book one day. Dovresti scrivere un libro un giorno. They loved Paul. Wow. Loro amavano Paolo. The best they had. Era il meglio che potevano avere. And then the Holy Spirit says. E poi lo Spirito Santo dice. Take out for me. Take out for me. Take out. Porta fuori. Paul and Barnabas and send them into the calling I have for them. Prendi fuori e manda Paolo e Barnaba per me. Sometimes in our churches we do the opposite. Molte volte nelle nostre chiese facciamo esattamente il contrario. We have a problem with brother Giuseppe. Abbiamo un problema con il fratello Giuseppe. Mamma mia. Mamma mia. What should we do? Che cosa dobbiamo fare? Let's send him to the mission field. Mandiamolo in missione. Madagascar. In Madagascar. No, we should send our best ones. Ma no, noi dovremmo mandare il nostro meglio. Because we are a sending church. Perché noi siamo una chiesa che manda. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Oh, oh. Andare in tutto il mondo. Andare in tutto il mondo. Oh, yeah. Now, when I was 18, ora quando avevo 18 anni, I had been nowhere. Io non ero stato da nessuna parte. I had not traveled. Non avevo viaggiato per nulla. And I went to this conference. E sono andato a questo quando avevo 18 anni in questa conferenza. And this preacher said, e questo predicatore mi ha detto, if you have a calling for missions, diceva, se hai una chiamata per la missione, please come forwards. Vieni qui avanti. I thought, calling for missions, me? E io ho pensato, chiamata alle missioni, io? I don't think so. No, non penso. But I had some strange images in my heart. Ma avevo questa sensazione nel mio cuore. About Europe. Questa immagine dell'Europa. I had never been there. Io non ero mai stato lì. Never been to Italy. Non ero mai stato in Italia. Germany. In Germania. France. In Francia. None of these places. Da nessuna parte. So you know, have you imagined in a meeting you can think a lot in 3 seconds? So, siete mai stati in quegli incontri dove puoi pensare tantissimo in soli 3 secondi? Should I go? Devo andare? Should I not go? Or magari rimango? I shouldn't go. No, forse non dovrei andare. Because I'm not a missionary. No, perché non sono un missionario. But I have these images in my heart. Eh sì, ma vedo questa immagine nel mio cuore. But it's probably not a calling. Ma forse non è una chiamata. Maybe it's just an idea. Forse è solo una mia idea. You know that feeling there? Sapete quella sensazione? La conoscete? And suddenly I find myself in the front. E tutto ad un tratto mi sono ritrovato davanti. My feet took me there. I miei piedi mi hanno portato lì. And then I was prayed for. E quindi il pastore ha pregato per me. And I met with God. E ho avuto un incontro con Dio. More than 1,000 people were there. E migliaia di persone erano lì. But when I went up from the floor. Ma quando mi trovavo qui davanti. The building was empty. Avevo la sensazione che l'edificio fosse vuoto. The lights were turned off. Che le luci fossero spente. And the janitor was impatiently wanting to lock the building for the night. E che il guardiano fosse abbastanza impaziente per poter chiudere l'edificio. There on the ground. Ma io ero lì ancora. I saw a vision that would change my life forever. E ho visto in quell'occasione, ho avuto una visione che poi ha cambiato la mia vita per sempre. I saw the squares of Europe. Ho visto le città, le piazze europee. I could see thousands of young people in the squares. E potevo vedere migliaia di giovani in queste piazze. I could see a big stage. Potevo vedere grandi palchi. Worship and music. Con gruppi di lode e adorazione, con la musica. The gospel being preached. E con il Vangelo che era predicato. And I saw demonic darkness over the square. I saw demonic forces over the square. E ho visto proprio delle forze demoniache su queste piazze. But when the gospel was preached. Ma quando il Vangelo era predicato. The light of the gospel penetrated darkness. Vedevo proprio la luce del Vangelo penetrare e vincere le ombre, l'oscurità. E vedevo centinaia e centinaia di persone che venivano salvate. On the right hand of the stage I could see empty wheelchairs and crutches. Sulla destra del palco potevo vedere sedie a rotelle non utilizzate, vuote. And I thought, wow. E ho pensato, wow. What should I do? Cosa devo fare? Cosa dovrei fare? I traveled in Europe in one month on the train. E quindi mi sono messo in viaggio e ho viaggiato per l'Europa per un mese col treno. Alone. Da solo. I went to these piazzas. E ho visitato, sono andato in queste piazze. And I thought, God. E ho pensato, Dio. This is crazy. Questo è pazzesco. I'm 18. Io ho solo 18 anni. I don't know anyone. Non conosco nessuno. You've given me a vision for the squares of Europe, the streets of Europe. Tu mi hai dato questa visione per le piazze d'Europa, per le strade europee. I'm from a small town in Norway. Ma io vengo da un paesino in Norvegia. Close to the North Pole. Vicino al Polo Nord. But you know what? Ma sapete cosa? God loves to shock us. Dio ama scioccarci, scuoterci. He loves to take things that are nothing in the eyes of men. E lui ama prendere quelle cose che davanti agli uomini non sono nulla. So I thought, what could I do? E quindi ho pensato, ok, cosa posso fare? I started a rock and roll band. E ho incominciato una band rock. Because wow, you know, rock and roll, you know. Sapete quel tipo di rock and roll? Because I was no preacher, I couldn't preach. Perché non ero un predicatore, non sapevo predicare. So we went to the rock clubs of Europe. E quindi siamo andati in questi club rock, in questi bar dove si suonava la musica rock. And it was many years ago. E era tanti capelli fa. I had much hair at the time. Avevo tanti capelli allora. I was singing for Jesus. E quindi cantavo per Gesù. Oh, Jesus can set you free. Oh. Hey, Jesus can set you free. Gesù ti può liberare. People were shocked. E le persone erano scioccate. We prophesied. Abbiamo incominciato a profetizzare. We prayed for the sick. A pregare per i malati. And people were saved. E le persone hanno cominciato ad essere salvate. And it was a very special atmosphere. E c'era un'atmosfera meravigliosa. Because of all the marijuana smoke. Perché a causa del fumo della marijuana. You know, special missionary. Veramente un missionario speciale. I thought, this is great. Ho pensato, ma questo è fantastico. I love this. Mi piace fare tutto ciò. And then God said, e poi Dio mi ha detto, close down the band. Molla la band. I will use you. Io ti userò. To raise up thousands of young people. Affinché migliaia di giovani possano essere innalzati. Who will go and do this. E possano essere equipaggiati per andare e fare quello che adesso stai facendo tu. Wow. So Jesus Revolution was birth. Quindi è così che Jesus Revolution ebbe inizio. And in this last few years. E in questi ultimi anni. We trained and we sent out 7,500 young people. 7,500 ragazzi sono stati equipaggiati e mandati. Preaching the gospel everywhere. A predicare il Vangelo dovunque. Healing the sick everywhere. A guarire i malati dappertutto. Sharing the love of Christ. A condividere l'amore di Cristo. We even went to Italy to preach. Siamo anche venuti in Italia a predicare. Everywhere. Dappertutto. Why? Perché? Because people must hear the good news. Perché la gente ha bisogno di sentire la buona Because notizia. Because Jesus said, "Go into all the world." Perché Gesù ha detto, vai in tutto il mondo. Amen. Amen. Now, some time ago. Sapete, qualche tempo fa. The Lord reminded us about the first word he gave us. Il Signore ci ha ricordato della prima parola che ha dato. Campaigns that shakes cities. Campagne che scuotono città. Is that possible? È veramente possibile? One time we went into a city in Norway. Una volta siamo andati in questa città in Norvegia. And so many young people received Jesus. E così tanti giovani hanno ricevuto Gesù. There were people who received Jesus in every class, in every school, in the whole city. In tutta la città, in ogni scuola, in ogni classe, c'erano persone, c'erano giovani che avevano accettato Gesù. One night this guy came to me. E una sera questo ragazzo viene da me. He was so sad. Ed era molto triste. You destroyed everything. Tu hai distrutto tutto. I said, what? E gli ho risposto, cosa? All my friends have become Christians. Tutti i miei amici sono diventati cristiani. Who shall I party with now? Adesso con chi mi devo andare ad ubriacare? I started Oh yeah, who should you party with now? I'm 11 of my friends, best friends. 11 dei miei migliori amici. They are now Christians. Adesso sono credenti. I must party all alone. E quindi adesso che devo fare? Devo intrattenermi da solo. Come on. E ho detto, su, andiamo. We can see cities shaken. Possiamo vedere città messe sotto sopra. With hundreds upon hundreds upon hundreds of people receiving Jesus. Con centinaia e centinaia e centinaia ancora di persone che accettano Gesù. Amen. Amen. And next year. E l'anno prossimo. As you saw in the video here. Come abbiamo visto nel video poc'anzi. We are starting like a new adventure for Jesus. Noi stiamo per incominciare una nuova avventura per Gesù. With gospel campaigns in Italy. Con delle campagne, degli eventi evangelistici in Italia. And we are so happy that we can connect with some good old friends. E siamo così felici che possiamo lavorare insieme a dei vecchi amici. Shall we stand together? Perché non ci alziamo tutti quanti? Shall we stand together? Now I believe. Ora io credo. That you have a mandate here in this church. Che noi come chiesa abbiamo un mandato. Not just for Italy. Non solo per l'Italia. Not just for Puglia. Non solo per la Puglia. But for the nations. Ma per le nazioni. For the nations. Per le nazioni. For the nations. Per le nazioni. But now. Ma adesso. I want to ask you one thing. Voglio chiederti questa cosa. Maybe you've come here tonight. Forse sei venuto qui stasera. You've heard this crazy Viking. E hai sentito questo pazzo. Viking. Vichingo. Vichingo. You've heard me talk about the nations. Mi hai sentito parlare delle nazioni. That we are supposed to go. Che noi dobbiamo andare. But maybe in your life, you know. Ma probabilmente nella tua vita, nel tuo cuore. Hey, go! I don't even know Jesus. Andare, ma io non conosco neanche Gesù. I don't really have relationship with God. Io non ho una relazione con Dio. Maybe you never knew him. Forse tu non l'hai mai conosciuto. Maybe you know about Jesus, of course. Forse chiaramente sai di Gesù. But maybe you don't have this personal relationship with him. Ma probabilmente non hai questa relazione personale con Gesù. You know what? Sai cosa? God is just one prayer away. C'è solo una preghiera in mezzo a te e Dio. And you can open up your heart tonight. E tu puoi aprire il tuo cuore questa sera. And you can connect with the living God. E puoi connetterti con il Dio vivente. He has a plan and a purpose for your life. Che ha un piano e un proposito per la tua vita. He created you for a time as this. Perché lui ti ha creato per un tempo come questo. He died on the cross for our sins. Lui è morto sulla croce per i nostri peccati. We know that Jesus Christ. Noi sappiamo che Gesù Cristo. The Son of God. Il Figlio di Dio. Is alive today. È vivo oggi. The Savior of the world. Il Salvatore del mondo. But is he your Savior? Ma la domanda è il tuo Salvatore? Only if you have received him into your life. Solo se l'hai accettato nel tuo cuore. So maybe you never knew him before. Quindi forse non l'hai mai conosciuto prima. Or maybe something in your relationship with God was broken. O forse qualcosa nella relazione tra te e Gesù si è rotto. If that's you, se sei tu, God is calling on your heart. Dio ti sta chiamando. Dio sta chiamando il tuo cuore. To surrender your life to God. E ti sta invitando ad arrendere la tua vita a Dio. And as we just bow our heads here for a moment, e quindi mentre chiniamo i nostri capi per un giusto momento, I ask that we just respect this moment in silence. E rimaniamo in silenzio, in adorazione. I just want to ask, are you here today? Io voglio chiederti, sei tu oggi, questa sera? And you say, pray with me. E che stai dicendo, ehi, prega per me. I need peace with God tonight. Io ho bisogno di fare pace con Dio oggi. I need to make sure I'm on my way to heaven. Io devo assicurarmi che dopo la morte andrò in paradiso. Whether you never knew him or you come back to Jesus. If you never knew Jesus or if you come back to him. Se tu non hai mai conosciuto Gesù o se vuoi ritornare a Gesù. If you say, please pray with me. Se tu oggi dici, ehi, prega per me. I need peace with God tonight. Io devo fare pace con Gesù oggi. I ask you to raise your hand right allora now. Io ti chiedo di alzare la tua mano. as a sign that you say yes to him. Come proprio un segno per dire a Dio sì, sono qua. God bless you. Che Dio vi benedica. And God bless you. Che Dio vi benedica. Grazie. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Che Dio vi benedica. God bless you. God bless you. I see all your hands there. God bless you. God bless you. Che Dio vi benedica. Sì, che Dio ti benedica. God bless you in the back there. Yeah, I see your hands. Di dietro vedo la vostra mano. Che Dio vi benedica. Grazie. Anyone else that says yes, please pray with me as well. C'è qualcun altro che questa sera dice sì, sì, prega per me, prega per me. Raise your hand wherever you're standing. Puoi alzare la tua mano giusto dove ti trovi. Alzala ben in alto così che io la possa vedere. I see you. I see you. Oh, there's many, many, many hands here. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Oh, thank you, Jesus. Grazie Gesù. Now what we will do here now. Ora quello che stiamo per fare. Is we will call upon the name of Jesus. You can take your hand down, please. Potete abbassare le vostre mani e noi pregheremo a Gesù. Because the Bible says that whosoever calls upon the name of Jesus shall be saved. Perché la Bibbia ci insegna che chiunque invoca il nome di Gesù sarà salvato. We believe in our hearts. E quindi noi crediamo nei nostri cuori. And we confess with our mouth. E confessiamo con le nostre bocche. And we can all help them in prayer. E noi possiamo tutti pregare. So let's say this prayer together, everyone. Quindi ripetiamo queste parole insieme. Jesus. Gesù. Jesus. Gesù. I believe in you. Io credo in te. I believe you are the Son of God. Io credo che tu sei il Figlio di Dio. I believe you died for my sins. Io credo che tu sei morto per i miei peccati. I believe that you were crucified for my salvation. Io credo che tu sei stato crocifisso per la mia salvezza. I receive you. E io ti ricevo. As my Lord and Savior. Come mio Signore e Salvatore. Thank you. Grazie. That I can be your child. Che io posso essere tuo figlio. That I can belong to you. Che io posso appartenerti. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Father God, we thank you. Padre, noi ti ringraziamo for your grace and your forgiveness. Per la tua grazia e per il tuo perdono. We thank you for your goodness towards us. Grazie perché sei buono con noi. We thank you, Lord Jesus. Grazie, Signore Gesù. That today is the day of salvation. Che oggi è il giorno della salvezza. Today is the day of your grace. Che oggi è il giorno della tua grazia. Thank you, Lord Jesus. Grazie, Signore Gesù. Oh, we praise your name, Jesus. E noi adoriamo il tuo nome. Oh, we praise your name, Jesus. Lodiamo il tuo nome. Oh, we lift our eyes to you, Lord. Alziamo le nostre braccia a te. Oh, we worship you, Jesus. E ti adoriamo, Gesù. Oh, we worship you, Jesus. Ti adoriamo, Gesù. Worship you, Jesus.